effetto. Qua cerco di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dei potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosita incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire! Eccoci ancora con voi, 1359 in onde medie, questa Radio Wombat, questo è lo spazio della stampa rassegnata, una delle trasmissioni informative di Radio Wombat che ormai da più di un anno, insomma, ci accompagna nella lettura delle cronache locali con un occhio di riguardo abbastanza particolare alle due vertenze popolari, quella contro la costruzione dell'inceneritore e più in generale le lotte e le vertenze sul ciclo dei rifiuti, e la questione dell'espansione, ampliamento, costruzione del nuovo aeroporto di Firenze. Questi sono un po' i nostri cavalli di battaglia, ma come sa chi ci ascolta con una certa regolarità o anche un po' a spizzichi e bocconi, non sono le uniche cose di cui ci occupiamo, ma diciamo più genericamente guardiamo quello che ci interessa e quello che ci sembra essere rilevante rispetto ai tentativi di resistenza popolare, di trasformazione sociale e tutto quello che poi tutto sommato in fin dei conti mi incuriosisce e mi interessa a livello personale, perché insomma al di là del, o meglio insieme al lavoro collettivo tra compagni e compagne e all'intelligenza collettiva, c'è poi sempre un aspetto personale del quale ci dobbiamo in qualche modo fare carico e insomma lo diciamo senza nascondersi e senza vergogna. Insomma, i saluti rituali li abbiamo fatti per chi ci ascolta con regolarità o per chi ci conoscesse adesso, e entriamo un po' nel vivo di quella che è la puntata di questa settimana, che è una puntata in qualche modo che facciamo con il sudorino alla fronte, perché chiaramente sarà a cavallo della tornata elettorale, quindi chissà come ci sveglieremo nel momento in cui insomma la trasmissione andrà in onda, cosa sarà successo, cosa succederà, probabilmente ben poco di nuovo è quello che forse ci sembra la cosa più sensata da dire, ma insomma c'è anche questo fatto sociale che ha una sua indubbia rilevanza. Questa puntata la vogliamo aprire con una questione certamente importante e che tutto sommato è anche ha un certo rilievo, proprio perché chiude in questo modo la campagna elettorale con una sentenza del Consiglio di Stato che rimette abbastanza in discussione quello che sembrava un punto segnato a favore della speculazione edilizia, che certamente intrattiene con il Partito Democratico Fiorentino, con moltissime forze politiche ovviamente, ma con il Partito Democratico Fiorentino, che è insomma in sella da parecchio tempo, certamente dei rapporti molto e molto molto privilegiati. Il Consiglio di Stato in questa situazione ha stoppato una variante che era stata approvata a febbraio e che insomma, senza fare troppe anticipazioni, vorrei leggervi un articolo di Repubblica, che lo prendo un po' per tutti perché in fondo sono tutti uguali, però certamente una notizia è rilevante non solo ai nostri occhi perché è stata riportata da tutti i giornali che fanno le cronache locali, sia il Corriere, sia la Repubblica, sia la Nazione. L'hanno data in modo più o meno omogeneo, quindi ripeto, la leggiamo dalla Repubblica, tanto per leggerne una, ma non è, insomma, non è sostanziale il giornale che l'ha commentata. La leggiamo e poi chiederemo, giusto per anticiparlo, un commento ai principali protagonisti, indubbiamente, di questa, in qualche modo, vittoria che segniamo nel campo delle esperienze, dei comitati, delle situazioni che tentano delle resistenze urbane da molti anni, e che è certamente il gruppo di urbanisti di Per un'altra città. Avremo con noi al telefono Antonio, che ci farà un commento di questa sentenza che, ripeto, andiamo immediatamente a leggere senza perdere altro tempo. Stop alla variante dal Consiglio di Stato, bloccati i cantieri nei palazzi storici, destinazioni vincolate. Stop alla variante urbanistica del centro storico di Firenze, almeno per il momento. bloccati fino alla sentenza nel merito le ristrutturazioni edilizie, mentre sono possibili solo interventi di restauro conservativo. Fino a nuovo ordine sono permessi, in sostanza, i lavori di conservazione degli edifici storici, ma non quelli di trasformazione, seppur con limiti. È la decisione del Consiglio di Stato che, con un'ordinanza sospensiva, ha accolto l'appello cautelare proposto dall'Associazione Ambientalista Italia Nostra, ribaltando la sentenza del TAR della Toscana, che a febbraio scorso aveva invece dato ragione al Comune di Firenze, respingendo l'appello. Ora, però, il Consiglio di Stato ha giudicato meritevoli di favorevole apprezzamento le deduzioni di Italia Nostra. Così, in attesa dell'udienza e della sentenza, ha emesso questa sospensiva. L'oggetto del contendere è la variante al regolamento urbanistico di Palazzo Vecchio del 2018, che consente nel centro storico e in alcuni piccoli borghi della periferia, tutelati dal regolamento, la ristrutturazione edilizia di immobili con limitazioni e il cambiamento di destinazione d'uso, invece del precedente restauro conservativo. Una norma che ha fatto discutere fin dalla sua introduzione e contro cui in passato è stata anche fatta una raccolta firme e un appello da parte di architetti urbanisti preoccupati per la tutela degli immobili storici. Secondo i giudici amministrativi di secondo grado è necessario, prima di decidere definitivamente, approfondire il rapporto tra la variante e la natura dell'intervento edilizio effettivamente consentito, chiarendone i limiti, la natura e le conseguenze, e considerando il valore degli edifici che formano il tessuto urbano del centro storico di Firenze, tutelato anche dal Codice dei Beni Culturali e dalla Convenzione UNESCO. Terzo punto da analizzare, la coerenza della variante con gli obiettivi del piano strutturale e con le caratteristiche del territorio fiorentino. Gli uffici analizzeranno nel dettaglio la sospensiva, spiega l'assessore Bettarini. Il TAR a febbraio aveva fatto una disamina molto dettagliata, è certo, quando dà ragione a loro è molto dettagliata, poi quando invece hanno torto, invece, questo ovviamente era un mio inciso, continua l'articolo. Per il Tribunale Amministrativo di primo grado, la variante non metteva a rischio il patrimonio storico-architettonico della città, ma costituiva un necessario adeguamento alle novità normative. Il Consiglio di Stato rimette tutto in discussione e decide di bloccare le ristrutturazioni degli edifici sotto tutela del centro e di borghi come Brozzi e Galluzzo, al fine di evitare il rilascio di titoli abilitativi edilizi, evitando così sia il rischio di lavoro sostanzialmente inutile per la pubblica amministrazione, sia per una tutela verso i privati. Gli approfondimenti, scrivono i giudici, potranno consentire di definire meglio il rapporto tra gli interessi pubblici, alla libertà d'impresa e alla tutela del patrimonio culturale, entrambi costituzionalmente garantiti. Palazzo Vecchio, se necessario, si è detto pronto a chiarire meglio il limite e la natura dei nuovi interventi edilizi. Questa, insomma, è la notizia, ne avevamo parlato già a febbraio, eravamo forse si potrebbe dire un po' in rodaggio con la nostra trasmissione, ma certamente era importante. Un tassello, ripeto, con cui la giunta di Palazzo Vecchio tentava di agevolare, facilitare e ungere l'assalto al centro storico, così l'abbiamo chiamato e continuiamo a chiamarlo, senza mezzi termini, perché questo è un assalto al centro storico che si è allargato ormai a tutta l'area metropolitana, perché non c'è luogo della città nel quale non ci siano privatizzazioni, progetti, project financing, progetti presentati da privati, vere e proprie speculazioni edilizie con grandissimi guadagni. Ne potremmo leggere anche altre durante la cronaca di questa settimana, se abbiamo tempo, anche se gli argomenti sono molti, ma insomma questa sospensiva che arriva, tra l'altro, ripeto, a ridosso delle elezioni, è certamente un punto che segniamo a nostro favore. Ed eccoci quindi, dopo averla letta nella bruta cronaca locale, sentiamo quindi il gruppo di urbanisti per un'altra città che riesce sicuramente, con competenza e precisione come da sempre li caratterizza, a collocare questa sentenza comunque importante, che leggiamo indiscutibilmente come una battuta d'arresto della macchina speculativa, all'interno della cornice più ampia della turistificazione fiorentina e, ripeto, dell'assalto alla città. Ma insomma, bando alle ciance, e sentiamo direttamente dalla loro viva voce un commento alla sentenza. A voi la parola. Ciao Andrea, sono Antonio Fiorentino del gruppo urbanisti del Laboratorio Politico per un'altra città, e francamente devo dire che abbiamo esultato sentendo la sentenza leggendo la sentenza del Consiglio di Stato, che ha annullato, seppure temporaneamente, la variante introdotta nel febbraio del 2018 dalla Giunta Nardella, variante che consentiva di intervenire sul patrimonio storico architettonico della città, ma anche sul tessuto storico consolidato, sul tessuto storico della città, sui manufatti sottoposti a tutela e vincolo diretto della soprintendenza, ma anche il patrimonio del Novecento. Era possibile intervenire con la ristrutturazione edilizia. Abbiamo detto una categoria di intervento molto permissiva, addirittura leggo la definizione di ristrutturazione edilizia: è l'insieme degli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Quindi vi lascio immaginare cosa è successo in parte, cosa potrebbe ancora accadere. Per fortuna questa variante è stata sospesa e quindi si ritorna al vecchio regime, per cui sul patrimonio storico, nel patrimonio storico architettonico, si interviene soltanto con gli interventi di restauro e risanamento conservativo, cioè gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità globale, conservandone soprattutto, questo è determinante, gli elementi tipologici, e quindi la tipologia, la struttura propria del patrimonio, del manufatto storico architettonico. La ristrutturazione edilizia introdotta, certo, era accompagnata da alcune limitazioni, ma guardate, limitazioni davvero molto, molto blande, molto superficiali, perché era possibile frazionare, sarebbe stato possibile frazionare il fabbricato, sarebbe stato possibile soppalcare, modificare profondamente la tipologia del nostro patrimonio storico, quindi consegnando una città completamente stravolta, completamente manomessa nelle sue profonde radici storiche. Ora, al di là del discorso della conservazione, della tutela, che è fondamentale, però la denuncia che viene fatta è questa, che questo tipo di interventi, inoltre, a parte quindi la manomissione, rende possibile più grave turistificazione, trasformazione turistica del centro storico, perché rende più facilmente trasformabili gli edifici storici, a tutto vantaggio della speculazione edilizia, della rendita immobiliare edilizia, che può mettere in atto degli investimenti e quindi vedere un ritorno piuttosto così importante, intenso, cioè è funzionale alla redditività degli investimenti sul patrimonio immobiliare, ma investimenti solo di tipo speculativo. Quindi si approfondisce la turistificazione della città, si incancrenisce la vita all'interno della città stessa, e soprattutto della città storica, che avrebbe bisogno soltanto di una tutela organica, facilitando quindi anche poi il processo di espulsione ovviamente degli abitanti e l'indisponibilità del patrimonio storico per soddisfare i bisogni abitativi degli abitanti, dei residenti, sia dei vecchi abitanti, ma anche dei nuovi abitanti che sono accolti in città. Noi lo ripetiamo più volte e lo abbiamo denunciato: il tessuto storico, il patrimonio storico ha solo bisogno di un intervento organico di tutela mediante un piano urbanistico particolareggiato che prenda in considerazione sia l'attuale struttura del tessuto storico, ma anche una serie di provvedimenti a tutela sia del patrimonio, ma anche della residenza, ma anche di un uso quotidiano, normale del centro storico, affinché sia Firenze possa essere una città viva, non soltanto una città vetrina disponibile soltanto per la speculazione fondiaria di tipo turistico e la speculazione fondiaria di tipo immobiliare. Ora speriamo che questo provvedimento possa essere trasformato in definitivo, e comunque noi saremo sempre disponibili per tutelare, per essere così attenti a che prevalgano gli interessi degli abitanti, dei residenti, contro gli interventi speculativi. Ciao Antonio, davvero un grande ringraziamento a te e a tutti voi per il lavoro che fate e ovviamente per quello che giustamente ci ribadisci che farete in futuro. Niente, chiaramente saremo anche scontati, però insomma contro palazzinari, speculatori, Airbnb che crescono come funghi, ribadiamo che la città, così come la stanno facendo, la subiscono soprattutto le classi subalterne e tra queste tutti coloro che non hanno accesso alla casa. E dove vado con tre bambini? Un bambino di 4 anni, uno di 7 e una di 11. Dove vado? Non sono stata per una settimana in macchina a dormire con la bambina. Ho trovato questo appartamento e mi sono buttata dentro. Allora, e così sono le storie di tutti. Questa va a tutte le famiglie sfrattate. È una canzone di denuncia allo Stato. Perché dopo 10 anni non ci potete sbattere fuori di casa. Abbastanza. È una notte fredda, sono di passaggio. Tengo mio figlio chiuso in macchina sotto un ponte di ghiaccio. La situazione disperata, senza una casa. Devo sfondare un vecchio appartamento da occupare. Cerco anch'io riparo, sono in aspettativa. Ho fatto anch'io richiesta, ma non alternativa. Solo promesse, non vedo risultati. Politici promettono, bastardi tutti uguali. Le barricate che si creano per un corteo. Quanta disperazione negli occhi degli amici. Vedo lacrime che scendono, le mamme sentono. Gli sbirri pestano e noi ci arrestano. Non siamo criminali, facciamolo capire. Vogliamo solo un tetto dove poter dormire, sentirci più sicuri, proteggere i diritti. Diciamo noi gli sfratti, facciamoci sentire. Ormai siamo scesi in piazza, dobbiamo proseguire. Le telecamere ci squadrano, non possono capire. Veniamo giudicati come manifestanti, ma quelli che ci aiutano sono i centri sociali. Lacrime cadono, mi sbattono fuori da casa mia. Vorrei un contratto, ma dopo 10 anni si svegliano. Dicono che è colpa mia, ora è solo colpa mia. Sotto di un ponte senza un tetto, storie di periferia. Peggio di Walking Dead, ondate di persone, se da crisi isteriche piangono lacrime amare. Antisommossa che sfollano più famiglie. Da caso il diritto, ma solamente se al politico dà il pizzo. Qui, nelle periferie il disagio aumenta. Chi grida infame mentre un bambino piange non capisce, vede solo i giochi in mezzo alla strada. La sua famiglia è incazzata, il padre rischia una manca nell'anima. Dimmi tu se questo è uguale per tutti. La legge vuole rispetto, ma il rispetto non lo concede a molti. L'assessore comunale, gli sfratti sono da fare, case da ristrutturare, regole da incorniciare. A Ballarò tutti bravi a parlare, ma nessuno di loro deve vivere in mezzo alle strade. Invece noi trattati come un cane, sfondati di mazzate, dopo 10 anni costretti a dire addio alle nostre case. Lacrime cadono, mi sbattono fuori da casa mia. Vorrei un contratto, ma dopo 10 anni si svegliano. Dicono che è colpa mia, ora è solo colpa mia. Sotto di un ponte senza un tetto, storie di periferia. E allora 1359, questo è Radio Wombat, più precisamente lo spazio radiofonico della Stampa Rassegnata. Ed ora, dopo questa breve pausa musicale, rientriamo appunto in voce e vogliamo ritornare sulla manifestazione, sulla contestazione al comizio di Matteo Salvini di domenica 19 di maggio. Ne abbiamo parlato la scorsa settimana con un commento riflettuto ma anche appassionato con Luca Di Yam, che era tra i protagonisti, insomma, nelle prime file della manifestazione e della contestazione, e ci ritorniamo sopra perché ovviamente, come spesso succede, quando ci sono le lotte, c'è anche un riscontro, un risvolto repressivo. Durante la manifestazione, che ovviamente non credo che i nostri amici e amiche ascoltatori e ascoltatrici abbiano mancato di vedere anche nei video, insomma, in quello che è diciamo il trattamento mediatico e social mediatico di un evento come quello, che è girato intorno a una contestazione certo molto grintosa, allegra e determinata, e che ha visto dall'altra parte, tra i cordoni di polizia, veramente tanta e tanta voglia di menare. Quella voglia di menare che contraddistingue la celere italiana da, direi, da sempre, senza ombra di dubbio, perché nonostante i reparti mobili che erano stati mobilitati per la giornata di domenica fossero della celere di Padova e di Bologna, che sappiamo costituire una sorta di scorta e guardia personale del ministro degli interni Matteo Salvini, è altrettanto vero che, insomma, la polizia italiana non aveva bisogno di Matteo Salvini al ministero degli interni per esagerare nella brutalità, negli abusi e nemmeno nel machismo. Ed è proprio di questo, aspetto, diciamo, di questo risvolto specifico dell'atteggiamento brutalizzante e brutale della polizia italiana che vogliamo in qualche modo affrontare oggi con un piccolo focus, chiedendo un commento a Livia del Movimento Fiorentino Non Una di Meno, che giustamente si sono tra le prime protagonisti e protagoniste mossi intorno a una vicenda specifica della quale non anticipiamo niente e che lasciamo in totale libertà raccontarla a Livia e commentarla, come ovviamente rispetto al punto di vista che Non Una di Meno ha saputo esprimere e che sta giustamente facendo, insomma, il giro della rete, e anche dai nostri microfoni troverà il suo legittimo e doveroso spazio. Livia, a te la parola, raccontaci quello che è successo, come l'avete vissuto e quello che state facendo e che eventualmente potremo tutti e tutti fare insieme a voi. Ciao a tutti, sono Livia e ringrazio Stampa Rassegnata per averci coinvolto. E allora, io cercherò essenzialmente di portarvi qui quello che noi abbiamo scritto collettivamente, come Non Una di Meno, rispetto appunto ai fatti che sono già stati in qualche modo introdotti. E quello che è successo, diciamo così, faccio solo questa piccola introduzione, non è stato chiaro nel momento in cui eravamo in piazza, e dopodiché la cosa si è chiarita, perché la ragazza che è stata manganellata e minacciata su un piano sessista durante il presidio contro il comizio di Salvini ha deciso, di sua spontanea volontà, una volta tornata a casa, di scrivere attraverso un canale social a una rete fiorentina. Quindi lei comunque è rimasta in forma di anonimato, e così noi comunque continuiamo a parlarne. E non fa parte della nostra assemblea, però ovviamente, essendo un gruppo che è nato sulla violenza alle donne, subito ci siamo sentite coinvolte avendo saputo della notizia, e abbiamo deciso di uscire con un comunicato. Il comunicato sta girando e penso che la cosa più giusta che io possa fare è leggervi quello che noi abbiamo scritto. Quindi adesso leggerò quello che abbiamo scritto. Il sonno della ragione genera sessismo e manganelli. A Firenze, domenica sera, mentre una manciata di leghisti seguiva il comizio di Matteo Salvini in Piazza degli Strozzi, una manifestazione enorme di antifascisti riempiva pochi metri più in là, in Piazza della Repubblica, una marea di persone piene di rabbia, ma anche della forza collettiva ritrovata, che all'odio e alla violenza razzista risponde con le forze della solidarietà, della comunità e dell'antirazzismo. Durante lo svolgimento di questa manifestazione, all'imbocco della strada che da Piazza della Repubblica porta a Piazza degli Strozzi, sono state numerose le case cariche, cosiddette di alleggerimento, che con molta poca leggerezza si sono abbattute su centinaia di persone disarmate e a volto scoperto. Nel corso di una di queste cariche una ragazza è stata trascinata da 3 agenti e portata oltre la schiera dei giornalisti, per poi essere malmenata in maniera indisturbata e minacciata di infilarle il manganello nell'ano se non stava ferma, per poi essere ricacciata tra la folla dopo le botte e le minacce perché tutto sommato non aveva fatto nulla. Questo episodio raccapricciante esprime la giuntura violenta che lega la gestione della pubblica sicurezza al sessismo, un sistema di ordine e repressione che fa del sopruso sessuale una delle sue armi, fatalità ancora una volta sul corpo delle donne. Quella ragazza malmenata e minacciata siamo tutte noi, perché tutte noi siamo in prima fila nelle lotte e nelle piazze a combattere contro fascismo, razzismo e sessismo, conoscendo molto bene la violenza che ci attraversa e come noi attraversa il corpo di tantissime e tantissimi. Le parole di odio del ministro dell'interno Matteo Salvini si esprimono in centinaia di pratiche quotidiane di esclusione, violenza, razzismo e sessismo, e non è certo un caso quello che è successo ieri sera in piazza a Firenze. Complici, solidali e furiose ci stringiamo alla ragazza che ha avuto la forza di denunciare quanto accaduto e promettiamo di essere le voci che insieme a lei urlano la gravità della violenza. Il sonno della ragione genera sessismo e manganelli. Non vogliamo che ci difendiate, vogliamo che smettiate di usare violenza su di noi. Contro razzismo, sessismo e violenza, autodifesa femminista e lotta permanente. Di seguito cito qui le parole diffuse dalla ragazza stessa. La ragazza ha scritto, scriveva lunedì, quindi è scritta al passato di ieri, che però intendiamo quello che è successo domenica. Ieri 19 maggio, durante una carica di alleggerimento, le forze dell'ordine di Matteo Salvini sono stata presa e trascinata fuori dalla folla di altri giornalisti. 3 agenti, a cui se ne sono velocemente aggiunti 2 successivamente, mi hanno presa e buttata a terra, presa a manganellate e trascinata lontano dalle telecamere, per il collo fino a quasi non avere più respiro, messa a terra, minacciata di infilarmi il manganello nell'ano se non stavo ferma, immobilizzata, identificata, sono stata rilasciata perché il pezzo grosso ha dichiarato che non avevo fatto nulla e che stavano esagerando. Umiliata, con i vestiti a brandelli, sono stata rilanciata nella folla senza nessun rispetto. Quello che è successo ieri fa male al cuore e alla speranza, alla voglia di esserci, di manifestare i propri pensieri e il proprio dissenso dal disastro che ci sta circondando. Non dimenticherò mai lo sguardo della gente che mi ha assalito, il suo sorriso, la sua soddisfazione nell'esercitare un potere forte, mero, privo di animo, su esseri umani che lottano ogni giorno per un mondo diverso. Mi ha sconvolto e addolorato più di ogni altra cosa. L'umanità perduta, il sopruso sessuale su una donna, il calpestare la dignità altrui. Queste sono le parole del nostro comunicato e di quello che ci ha mandato in forma anonima la ragazza, anzi l'aveva mandato in rete attraverso altri canali di social. E questo è quello che mi sento, come dire, di rispondere al programma di Stampa Rassegnata, perché comunque noi facciamo un percorso collettivo, quindi penso che la cosa migliore sia appunto parlare con le parole che abbiamo scritto tutte insieme e che insieme abbiamo deciso di scrivere in questo momento che ci ha lasciato agghiacciate per quello che è successo e che sicuramente sappiamo benissimo non è la prima volta, purtroppo facilmente è deducibile che non sarà neanche l'ultima. Non è di meno, esiste in tutta Italia. Noi a Firenze ci incontriamo tutti i mercoledì alle 19 in via Fiesolana al 2B alla Libreria delle Donne, e è un'assemblea aperta, orizzontale. Ogni volta discutiamo di quello che ci sembra più urgente e più importante, e il prossimo appuntamento che vorremmo lanciare è mercoledì 12 giugno, saremo davanti al presidio di Santa Rosa per fare un'assemblea sulla questione dei consultori, perché stiamo chiedendo che urgentemente venga aperto un nuovo consultorio che ci serve tantissimo proprio lì a Santa Rosa, dove il consultorio in questo momento manca. E spero che possiamo continuare a sentirci, e per qualsiasi cosa venite a trovarci, leggete la nostra pagina, abbiamo tantissimi appuntamenti di proiezioni, presentazioni di libri, e siamo un po' ovunque, quindi seguiteci, e per qualsiasi cosa siamo tutti interconnesse e interconnessi. A presto, ciao. Grazie, benissimo, ringraziamo davvero tanto Livia che ci ha letto dalle parole usate a livello collettivo, non certo per taccagneria o per tirchieria, ma appunto per ribadire l'importanza del metodo collettivo che contraddistingue l'esperienza di Non Una di Meno come molte delle altre che passiamo dai nostri microfoni. E certo, siamo tutti interconnessi, interconnesse, e chiaramente facciamo nostro l'invito che Livia ha rilanciato per seguire dalle pagine Facebook, dalle pagine social e in ogni altro luogo le iniziative del Movimento Fiorentino. Ed ora passiamo a ragionare, a raccontare e a far raccontare, forse ancora più interessante, quello che è stato lo sciopero per il clima del 24 di maggio. Fridays for Future torna in piazza. Molte manifestazioni in tutta Italia, in tutto il mondo, e ovviamente non poteva mancare anche la nostra amata città di Firenze. Nella città di Firenze oggi una gran bella manifestazione, direi che lo possiamo proprio dire, partecipata moltissimi gli studenti, le studentesse, molti giovani, ma di fatto anche molti abitanti che a Firenze e nella Piana non si arrendono né al potere del denaro né a quello che alcuni ovviamente osservatori interessati vorrebbero in qualche modo definire un destino segnato per il pianeta, per la crisi ecologica e di fondo per tutte le specie viventi che lo popolano. Non ci arrendiamo a niente, neanche alla versione green del neoliberismo che ormai accomuna molti poteri. Direi che insomma un commento lo dobbiamo chiedere per forza agli organizzatori, alle organizzatrici, a coloro che sono stati più protagonisti non solo nella giornata di oggi ma anche nel primo sciopero, ma anche in quel percorso di discussione interna avvenuto in maniera orizzontale e democratica che ha portato il collettivo, il gruppo variegato e plurale di Fridays for Future alla definizione di uno sciopero, di una manifestazione, quella di oggi, nella quale diciamo parole d'ordine generali o generaliste che corrono spesso il rischio di essere facilmente recuperate e strumentalizzate dalla controparte, invece sono state riempite da dei contenuti ben precisi, dall'indicazione di responsabilità e di scelte concrete che vedono i nostri politici e i decisori pubblici di fronte a appunto scelte molto importanti. Tra queste credo che un posto di primo piano e di rilievo l'hanno avuto, ovviamente non a caso, per quello che riguarda la città di Firenze, le scelte in tema di rifiuti e la scelta della portata avanti in maniera molto e molto forte e determinata, soprattutto dall'amministrazione attuale fiorentina e dal Partito Democratico di tutta la Piana, che è quella della costruzione del nuovo aeroporto. Contro queste grandi opere, contro questo complesso e sistema di forze e di potere, la manifestazione di oggi non ha avuto né se né ma, si è schierata in maniera decisa, appunto facendo tesoro di quello che è anche il rapporto e l'esperienza del comitatismo, dei movimenti e delle resistenze popolari che in questi anni si sono sviluppate intorno e contro a queste tematiche, a queste nocività. Ma, ripeto, un commento della giornata di oggi lo dobbiamo e lo vogliamo chiedere proprio a chi l'ha organizzata, perché ci dica come l'ha vissuta, come ha sentito insomma l'arrivare alla giornata di oggi e anche cosa ne pensa, visto la piazza in qualche modo anche frizzantina che per un po' di tempo è stata protagonista del blocco del traffico sui viali, che non era previsto, ma che è stata una piacevole novità e una piacevole inserzione, direi appunto, di vivacità e di brio nella manifestazione di oggi. Insomma, l'introduzione è stata più che ampia, più che lunga, e quindi è proprio il momento di sentire dalla viva voce degli studenti e delle studentesse, dei giovani e delle giovani di Fridays for Future, un commento per la giornata di oggi. A voi la parola e grazie. Quella di venerdì 24 maggio è stata per noi una giornata sicuramente molto importante, perché ci ha dimostrato e ha dimostrato alle persone che guardano a questo movimento Fridays for Future come la mobilitazione del 15 marzo non sia stato frutto di una fiammata isolata, ma sia stato frutto della consapevolezza della società civile, degli studenti e dei non studenti che sono scesi in piazza, di quanto sia necessario in questo momento pretendere un cambiamento dalla politica, una politica che di sicuro in questo momento non sta lavorando per risolvere il problema del riscaldamento globale e della crisi ecologica. Di conseguenza la società civile si rende conto che è necessario scendere in piazza e pretendere con forza questo cambiamento. E se questo cambiamento non arrivasse dalla politica, allora la società civile deve farsi carico del cambiamento. Prima di tutto è necessaria però una rivoluzione culturale che ripensi il rapporto dell'uomo con la natura. La natura che viene vista come un bene di consumo che può essere comprato, utilizzato e poi buttata. Una rivoluzione culturale che quindi per forza di cose parte dalle scuole, per poi allargarsi a tutta la società civile. Dobbiamo ripensare il nostro modo di vivere in rapporto con la natura. La natura non è un bene di consumo, non può essere sfruttata, non può essere denigrata in questo modo senza che noi ne subiamo poi le conseguenze. Il concetto che deve cambiare è quello del rapporto consumistico con la natura. E di conseguenza la rivoluzione culturale deve partire dalle scuole e deve diffondersi, deve essere sostenuta da tutte le persone, perché il cambiamento è necessario e deve arrivare adesso, non abbiamo più tempo. Siamo molto contenti della manifestazione del 24 maggio. È stata davvero una bella manifestazione, molto vivace, piena di cose e cartelli creativi e soprattutto partecipata. Si stima fossimo sulle 3.000 persone e anche se siamo stati molti di più il 15 di marzo, a questa manifestazione hanno partecipato soprattutto giovani, studenti e studentesse. Siamo contenti di come sia stato compatto tutto il corteo, dei cori, della partecipazione dei giovani, e dell'esito del sit-in, che ovviamente bloccando il traffico ha creato scalpore e ha fatto un po' di notizia, che ovviamente era quello che volevamo. E ovviamente ogni Fridays for Future di ogni città scende in piazza esigendo cambiamenti a livello nazionale, a livello globale, a livello nazionale, però ovviamente anche a livello locale. E per quanto riguarda Firenze, come già detto, noi siamo contro l'inceneritore e l'ampliamento dell'aeroporto, però comunque quando scendiamo in piazza lo facciamo soprattutto perché esigiamo che i politici di tutto il mondo, i politici italiani, i politici europei, di tutto il mondo, facciano qualcosa, prendono delle misure per arginare e limitare al minimo gli effetti di riscaldamento globale che già si stanno riversando su di noi. C'è bisogno di un taglio netto e di eliminare totalmente le emissioni di CO2 nell'aria, c'è bisogno di limitare e di smettere di inquinare i mari, di inquinare sotto ogni punto di vista. L'inquinamento della plastica è terribile, c'è veramente bisogno di un cambiamento del nostro stile di vita, cambiamento della società, una società caratterizzata dal sistema capitalistico, perché diciamolo, è dovuto a questo sistema capitalistico, a questo sfruttamento continuo, sfruttamento di tutto, delle risorse ambientali, delle persone, questo è da sottolineare, che siamo arrivati alla situazione che abbiamo oggi. Infatti quando noi scendiamo in piazza e parliamo di crisi climatica ambientale, esigiamo giustizia climatica, e per giustizia climatica intendiamo che la risoluzione della crisi ambientale e climatica è imprescindibile dalla giustizia sociale, e questo è veramente importante. C'è bisogno di smettere di sfruttare in modo sfrenato e consumistico tutto ciò che abbiamo, di sfruttare tutto e tutti. C'è davvero bisogno di un cambiamento, di una rivoluzione. E quando scendiamo in piazza, come abbiamo fatto il 24 maggio, siamo scesi in piazza in maniera molto pacifica. Però se siamo lì in piazza a manifestare è perché siamo stufi, siamo arrabbiati nei confronti di politici che parlano e poi non fanno niente. Tutte le promesse, anche alle conferenze delle parti, si fanno promesse che però non sono vincolanti. E noi siamo stufi delle promesse, vogliamo fatti, vogliamo che queste promesse si concretizzino. E non siamo soltanto noi a manifestare esigendo questo. Fridays for Future esiste in Italia, esiste in Europa, ma esiste anche Youth Strike for Climate in Australia, This is the Zero Hour in America, siamo tanti in tutto il mondo. Ritornando sull'Europa, per quanto riguarda questa domenica, è davvero importante che tanti giovani siano andati a votare, perché è la nostra occasione di dare, è l'occasione nostra di dare voce alla nostra generazione e a tutti coloro che non possono ancora votare. L'importanza di queste elezioni europee l'abbiamo anche dimostrata e manifestata con un presidio che degli attivisti da tutta Europa stanno portando avanti da più di 24 ore sul suolo del Parlamento europeo. E questa è una cosa che non è mai successa prima d'ora, prima volta nella storia. Questa seconda manifestazione globale non sarà di certo l'ultima, e noi comunque continueremo a manifestare ogni venerdì per quanto riguarda Firenze in Santissima Annunziata. E quindi ci trovate lì ogni venerdì e niente, alla prossima manifestazione. E allora sì, un grande ringraziamento ai ragazzi e alle voci che hanno raccontato la giornata del 24 di maggio, raccogliendo ovviamente ogni loro invito e sollecitazione, anche quelle più, se vogliamo, immaginifiche. Non abbiamo più tempo e lo sappiamo, e il poco che abbiamo lo dobbiamo certamente dedicare alle manifestazioni, alle iniziative e alle lotte. E quindi sì, raccogliamo appunto l'invito, ci vedremo certamente nelle piazze contro la devastazione ambientale, contro il cambiamento climatico e contro le politiche che ci hanno portato fino a qui in questa folle corsa nello sfruttamento intensivo dell'uomo e della natura. Ed ora una breve pausa musicale con questa chicca trovata nella rete che ci porta in qualche modo anche con i suoi contenuti all'ultimo argomento della giornata di oggi, che affronteremo dopo la pausa musicale. Alla parola a questa nuova cantautrice. Ciao Matteo, ciao capitano. So che oggi sei nella mia città e io sono nella mia città, Vercelli, ma sono a Rione Isola, dove notoriamente, anche se appendi uno striscione, non se ne accorge nessuno, perché è una delle parti della città di cui tendenzialmente non frega mai nulla a nessuno. Quindi qui, dalla mia fortezza di Reietta, ti dedico questa canzone che tu mi hai ispirato e viene davvero dal profondo del mio cuore. Oh Salvini, Matteo Salvini, ingrassato da Facebook Littorio, col tuo amico Feltri Vittorio, tutto il giorno a postare fake news. Ti ricordi quando eri ragazzo e partecipasti al pranzo e servito, a Mengacci parlavi svampito e facevi un gran bel figuron. Ti ricordi quando eri studente fuori corso e mai laureato, sempre il papi ti ha foraggiato e hai scansato alla grande il lavoro. Ti ricordi del cielo durismo quando Umberto baciavi le mani, morti ai negri, ai meridionali, con in mano l'ampolla del Po. Chi ti chiama mio capitano quando scrive fa pianger la crusca, quanta voglia di prender la ruspa e far quel che vuoi far tu coi rom. A Giussano giocavi alle bocce mentre in mare crepavan bambini, ma che importa, ci sono i quattrini e si aspetta la grande occasione. L'occasione al fine è arrivata il primo di giugno, al governo col tuo brutto grugno ti sei messo a fare il dittator. Gli squadristi li hai perdonati, gli antifascisti li vuoi in galera, la camicia non era più nera, ma il fascismo restava il padron. Era tuo quel Luca Traini che a Macerata sparò gli africani, i tuoi amici son dei fasci infami di Forza Nuova e di Casa Pound. Più nemmeno il furto di Zorro può spiegare le tue abiette scelte, non ti bastan più neanche le felpe per rispondere alle umiliazioni. Noi crepiamo senza lavoro, senza futuro per noi i nostri figli, ma non crepiamo crederci tanto imbecilli da lasciarci di nuovo fregar. Se Silvio ci ha rotto le tasche, tu Salvini ci hai rotto i coglioni, pei leghisti e pei vecchi cialtroni, in Italia più posto non c'è. Se Silvio ci ha rotto le tasche, tu Salvini ci hai rotto i coglioni, pei fascisti e pei vecchi cialtroni, in Italia più posto non c'è. Bacini, bacioni, baciotti. Ecco, insomma, rientriamo in voce. Questa è Radio Wombat, per chi si fosse collegato solo adesso, lo spazio della stampa rassegnata. Avete ascoltato questa canzoncina che ci porta, ripeto, all'ultimo argomento: Salvini, salvinismo, elezioni europee, che quando la trasmissione andrà in onda si saranno già svolte, elezioni comunali che, ripeto, quando la nostra diretta del martedì andrà in onda ci saranno già state scrutinate, quindi vediamo che è successo, ma insomma la pompatura che il capitano ha avuto per ormai molti e molti mesi e la sua suo andare sempre più in modo deciso a costituirsi e candidarsi come partito dei padroni sicuramente gli darà anche un riscontro elettorale, non ne abbiamo alcun dubbio. Niente, ora un'altra cosa che ci interessa e sulla quale ci interessa puntare la nostra attenzione e, se così possiamo dire, il nostro dito: il presidio dei COBAS della scuola. Mercoledì 22 di maggio si è svolto sotto la prefettura, non poteva che essere lì, un presidio da parte dei COBAS della scuola, ovviamente aperto a tutti e tutte coloro che insomma lo ritenessero interessante e importante la loro presenza al fianco di questa insegnante. Si parla dell'insegnante siciliana, mi pare Rosa Maria, se non sbaglio, anche se nelle cronache è apparsa con più nomi, probabilmente una persona che ha più nomi e quindi a volte ne mettono uno, a volte un altro, ma insomma diciamo Rosa, per noi Rosa, che durante un compito i propri studenti hanno paragonato quella che è la politica attuale sui migranti alle leggi razziali del ventennio dei nazifascismi europei e accostato la figura di Matteo Salvini a quella di Benito Mussolini. Questo gli è valso non solo minacce, diciamo, di far entrare addirittura la Digos in classe, a sorvegliare le sue lezioni, in qualche modo a commissariare il suo insegnamento, ma alla fine si è trasformato in una sospensione dal servizio per 15 giorni senza stipendio. La cosa chiaramente ha suscitato un certo scalpore, un certo clamore, sicuramente anche avvantaggiata dalla possibilità di far circolare notizie come queste, che magari fino a 20 o 15 anni fa sarebbero rimaste tra virgolette al chiuso dell'istituto scolastico e del comprensivo. Oggi insomma ha fatto notizie, chiaramente nella cornice di questo scontro abbastanza ampio e a tutto tondo tra i populismi di destra e ipotesi certamente di maggiore liberalismo, anche di libertà di espressione, di difesa di diritti che consideriamo per certi versi acquisiti nella vecchia Europa, ma che vengono continuamente messe in discussione. La cosa ha fatto notizia, giustamente, anche perché è molto molto grave. Va sottolineato che la sospensione non è arrivata, tra l'altro, per diciamo mettendo in discussione la sua libertà di insegnamento, ma in modo forse ancora più subdolo gli è stato imputato una mancata vigilanza, come se appunto l'insegnante, anziché accendere le menti dei ragazzi e al limite indirizzare e orientare il loro ragionamento, dovesse sorvegliare, imbrigliare sorvegliare, l'abbiamo detto. Questa è la vicenda sulla quale hanno solidarizzato i COBAS della scuola e sulla quale, più che le mie parole, vorremmo sentire le loro. Quindi un intervento l'abbiamo chiesto a Flavio dei COBAS della scuola Firenze, che a cui adesso passiamo il microfono per raccontarci quello che è successo, come è andato il presidio e riflessioni sparse su questa diciamo parentesi veramente di proporzioni e dimensioni infinita che vede gli insegnanti come parte in causa di questo questo attacco a libertà e diritti civili che sono stati per decenni bandiere anche della Costituzione italiana, considerata per certi versi lo è oggettivamente una delle costituzioni più avanzate d'Europa e che continuamente vede insomma messe in discussione quelli che per conto nostro sono i suoi capisaldi. Allora sì, dopo il provvedimento disciplinare dato dall'ufficio scolastico regionale di Palermo alla professoressa Maria Assunta Dell'Aria, si è creato un movimento di indignazione un po' in tutta Italia, soprattutto da parte degli insegnanti e degli studenti. Questo ha portato quindi anche a una serie di presidi, come anche il nostro, che si è svolto sotto la prefettura, e ha portato il governo è stato messo in difficoltà da questo provvedimento disciplinare. Fatto sta che Salvini ha utilizzato in maniera propagandistica anche questo fatto, ha saputo rovesciare questo fatto, ora vediamo se ci è riuscito veramente, è volato a Palermo, ha voluto incontrare la professoressa, ma non nell'ufficio scolastico regionale, poi tra l'altro lui non è neanche il ministro dell'istruzione, quindi non so quali poteri potesse avere, se non quello che si accentra una serie di poteri su di sé che non gli competono istituzionalmente. Comunque anche qui ha fatto confusione perché è andato in prefettura, che c'entra con l'ufficio scolastico, e quindi ha convocato la professoressa in prefettura dichiarando che avrebbe annullato il provvedimento disciplinare, cosa che non spetta a lui perché sono ambiti istituzionali differenti, quello dell'ufficio scolastico e quello del Ministero degli Interni. Comunque è passata questa notizia, ai 420, ma riporta Orizzonte Scuola che a tutt'oggi invece fa sapere la professoressa tramite i suoi legali che il provvedimento non è stato ancora ritirato e che quindi lei tornerà lunedì, ma perché sono finite le due settimane di sospensione dal lavoro. Quindi di nuovo questo governo si muove sul terreno della propaganda e non dei fatti reali, se non i fatti reali che sono quelli di una erosione delle libertà come quella di insegnamento, che è garantita dall'articolo 33 della Costituzione e che garantisce che l'insegnante non sia soggetto a pressioni da parte dei governanti. Questo era stato pensato appunto dai legislatori proprio per prevenire eventuali svolte autoritarie che sarebbero potute avvenire, no, dopo l'esperienza del fascismo. Quindi in effetti si è colpito, l'ufficio scolastico ha colpito un insegnante non perché lei avesse paragonato il decreto sicurezza alle leggi razziali del fascismo, ma perché lo hanno fatto i suoi studenti e lei non li ha censurati, perché ha lasciato che i suoi studenti potessero esprimere liberamente la loro opinione, anche se lei poi non so se la condividesse o meno, ma non credo che la condividesse. Comunque non è questo il punto, è che non li ha censurati, che non ha censurato un video che poteva essere lesivo per il governo. Siamo qui con Eva, al via il torneo come tutti gli anni, più o meno fine maggio. La prima partita, il primo girone, ha già giocato il 25 maggio, sabato. Primo commento, Eva, Atletico Mestro, un grande risultato, sentiamolo dalla sua viva voce. Grandissimo risultato dell'Atletico Mestro, riesumato dopo 7 anni, quindi aspettativa bassissima, ma in realtà ha strappato un bel 4-1 alle Mele Toste, squadra femminile delle Boschi, quindi insomma grande soddisfazione di tutte le giocatrici, due componenti maschili nella squadra femminile, però diciamo che ce la siamo cavata egregiamente, ma siamo purtroppo fuori dal turno, quindi passano Corsica, che anche quella è una squadra super scordinata, però è riuscita a passare il turno. A volte il risultato e arriva. Melograno invece, grande prestazione del Melograno. Per il primo anno il Melograno gioca. No, non, forse non è il primo, però insomma sono novelli. Un giocatore di 13 anni dentro la squadra, squadra mista, molto poliedrica. E bellissima squadra, secondo me, infatti risultato meritatissimo, anzi tiferemo Melograno, multirazziale, sì esatto, e insomma bellissima partita anche quella contro il Melograno. Noi l'IVA non la paghiamo. Squadra mista, riassumendo allora chi esce, cioè, dal girone? Esce dal girone l'Atletico Mestro e Mele Toste, chiaramente. E quindi passa Corsica. Quindi passa Melograno e Corsica, perché sono Melograno e Corsica. Ricordatevele, perché insomma sembrano squadre insidiose per come sono state descritte. E ora dal serio al faceto, che clima si respira in casa, gli sbattimenti legati all'organizzazione del torneo, con questo tempo c'è la fanghiglia, è sempre un momento per chi conosce il Cecco, insomma a rischio dramma, però insomma si regge, però lo chiediamo sempre a loro, perché siamo arrivati e li abbiamo trovati intenti a dare il cencio, pulire, levare il fango, stare dietro a bambini. Poi arrivano quelli da fuori, hanno delle pretese, vogliono trovare un torneo che spacca, come per esempio Alessandro Vulpiani, grande terzino stopper della Dinamo Dazzi, è arrivato. Ciao, direttamente ora parlando. Per giocare con nessuno per ora, si registra, poi si manda in radio. Che ci dici? Che ti aspetti quest'anno dal torneo? Grande fatica, per me è grande fatica. Di sicuro, siamo arrivati ai 42. 42, io l'ho fatti pochi giorni fa, ormai i nostri ascoltatori lo sanno, c'è anche il dolce. Vabbè, quindi il clima tutto sommato è positivo. L'instabilità climatica è... C'è dei ragazzi pimpanti. Ci sono i giovani che ci aspettano. Ecco, arriva anche Gire. No, va sentito per forza. Gire, che ti aspetti quest'anno dal torneo? Quest'anno la Dinamo Dazzi farà una performance pessima. Pessima. Pietro, per piacere, di qualcosa che ai nostri ascoltatori e ascoltatrici ispiri la speranza. Il babbo non gioca? No. E perché? Gli fa male l'anca. Gli fa male l'anca. Rottura del femore per Capitan Polpetta. Il più giovane capitano di calcio con rottura del femore, Capitan Polpetta. No, si scherza ovviamente, quindi squadra più che dimezzata, diversi in trasferta, qualcuno è rotto, l'età avanza, ma insomma la Dinamo Dazzi si appresta ad entrare in campo, quindi i nostri ascoltatori li lasciamo così.